Un libro tira l'altro, di Salvatore Carrubba. Buongiorno cari amiche e cari amici, oggi parliamo di un tema forse inconsueto ma purtroppo molto attuale, quello dell'arte in guerra, o meglio dei rapporti che ci sono tra le opere d'arte e le vicende belliche, gli scontri di potere che in tutto il mondo coinvolgono e spesso mettono a repentaglio le prime, le opere d'arte. Recentemente si è parlato di questo tema, per esempio in occasione delle polemiche sulla distruzione delle ruberie nei musei iracheni, o quando ci fu la famigerata distruzione dei Buddha da parte dei talebani, o ancora più di recente quando si è parlato dei danni al patrimonio artistico in Siria e ad Damasco. Di questo tema parlo un esperto non di cose artistiche, ma di relazioni internazionali, e cioè Sergio Romano, nel libro L'arte in guerra, per l'appunto. È pubblicato da Schirà, 84 pagine, 9 euro. La storia di cui si parla non è una storia nuova, le razzie di cose artistiche infatti fanno parte della storia delle conquiste ed erano quasi considerate normali. Pensiamo per esempio a quella che vediamo ancora oggi documentata, rappresentata nell'Arco di Tito a Roma, dove appunto troviamo la scena con il trasporto a Roma da Gerusalemme da parte dei vincitori romani della menorah ebraica, che era l'oggetto sacro per eccellenza al culto di quel popolo. L'esperienza dei romani fece scuola, fino ai più famosi razziatori della storia, che probabilmente sono stati Napoleone. Nel libro si parla del contributo che le razzie di Napoleone hanno dato alla costituzione di quello che forse è il più famoso museo al mondo, cioè il Louvre, voluto dall'uomo, dal braccio destro di Napoleone in questo campo, Danon, il quale teorizzava il fatto che le opere d'arte stessero meglio che nelle sedi originarie proprio nel museo che egli stava realizzando a Parigi. L'altro razziatore, Hitler, con alcuni suoi degni compari d'avventura come Göring. Hitler in particolare razziò perché voleva costituire questo famoso museo dedicato a se stesso a Linz. E naturalmente non si parla solo di razzie, ci sono anche le distruzioni più recenti, per esempio quelle degli alleati anglo-americani al patrimonio artistico. Gli anglo-americani forse furono i primi che si posero il problema di non danneggiare inutilmente il patrimonio artistico. C'è nel libro ricordato un dispaccio anche del generale Eisenhower su questo. Questo non impedì loro di andare anche abbastanza drasticamente quando si trattava di ottenere, di conseguire dei risultati bellici, e così venne distrutta Monte Cassino, oppure vennero danneggiati gravemente tanti altri monumenti e luoghi importanti come la Scala a Milano. Ma su questo adesso sentiamo l'autore. Buonasera a Sergio Romano. Buonasera. Sergio Romano, il suo libro allora parla dei rapporti fra l'arte e la guerra, fra l'arte e il potere. Qual è il legame nel quale si può riassumere questo rapporto tra queste due realtà apparentemente così distanti l'una dall'altra? Vedi, l'arte rappresenta durante la guerra lo scopo per certi aspetti più ambito, qualche volta persino più delle acquisizioni territoriali, perché conferisce gloria, conferisce nobiltà. In alcuni casi addirittura diventa uno strumento di potere. Non dimentichiamo che la rivoluzione francese fece dell'acquisizione del patrimonio culturale europeo, come dire, un obiettivo politico di prima importanza, perché desiderava essere il paese dell'arte, il paese che avrebbe in qualche modo pedagogicamente esercitato una funzione universale. L'uso dell'arte è molto illuministico, paradossalmente. Noi vediamo naturalmente in Napoleone Bonaparte soltanto il guerriero rapace che si è portato a casa tutto quello che si poteva portare, e ci dimentichiamo che si mosse invece nel quadro di una direttiva che veniva dall'Assemblea Nazionale e poi dal direttorio, ben precisa. Bonaparte, quando scese in Italia, non era libero di fare ciò che voleva, doveva mandare arte a casa. Poi ci mise del suo, naturalmente. Sì, senza dubbio, ma bisogna dire che non credo che fosse interessato personalmente come collezionista. Lui dette il suo nome al museo che oggi chiamiamo Louvre, che allora per un certo periodo fu chiamato Musée Napoléon, quindi in un certo senso la sua collezione era lì e gli dava tutta la gloria di cui aveva bisogno. E poi venne Canova per cercare di recuperare le opere che erano state razziate al Louvre. Canova fu straordinariamente bravo, non tutte le opere per la verità, perché era una sorta di ambasciatore degli stati pontifici, che erano quelli che avevano pagato per primi, perché nel trattato di San Niccolò di Tolentino, stipulato da Napoleone durante la sua prima campagna in Italia, il trattato elenca per l'appunto circa un centinaio di opere che dovevano essere consegnate ed effettivamente vennero consegnate. Apro una parentesi che può essere divertente: a Milano i milanesi, 250.000 ho letto milanesi, hanno visto in Piazza della Scala la Madonna di Foligno, di Raffaello. Ebbene, quella Madonna era stata asportata, molto probabilmente, se non sbaglio, con il trattato di San Niccolò da Tolentino. Poi fu restituita, ma anche lì, naturalmente, quando viene restituita bisogna andare a vedere in che mani viene restituita. Avrebbe dovuto essere restituita alla città di Perugia, perché da Foligno, piuttosto a Foligno stessa, ma invece il Vaticano preferì tenersela. Perché? Perché voleva a sua volta creare un grande museo universale che avrebbe avuto anche quello un risultato pedagogico. Nel suo libro lei nota un risultato paradossale di questa politica napoleonica, cioè il fatto, la cito, che le guerre nazionaliste ebbero l'effetto di attizzare il nazionalismo dei paesi occupati da Napoleone. E fa il caso della Spagna, della Russia e della Germania. Questo che risvolti ebbe sul piano artistico, sul piano del patrimonio artistico? Sì, anche questo per la verità è piuttosto interessante, perché a un certo punto l'arte, la restituzione di ciò che era stato rubato, la valorizzazione di ciò che rientrava in patria, divenne un fattore di orgoglio nazionale. Naturalmente Napoleone risvegliò il nazionalismo dei popoli conquistati, molto meno in Italia del resto di quanto sia accaduto in Spagna e Russia, ma a quel punto l'arte divenne fattore di identità nazionale, e questo è accaduto quasi ovunque in Europa. Quando si vuole la restituzione di un oggetto artistico, lo si vuole perché ci si sente, per così dire, amputati, privati di una parte della propria identità. C'è qualcosa di feticistico, temo, in questo. Infatti lei sottolinea che anche l'Italia a un certo punto abbracciò, se non le pratiche di razzia, però certo una ideologia panitaliana, come lei la chiama, che ebbe anche riflessi su questi temi. Panitaliana quando si trattava di riportare in casa qualche cosa che almeno teoricamente apparteneva alla tradizione culturale italiana, e poi naturalmente anche come paese conquistatore portare a casa roba d'altri. L'obelisco di Aksum, che per molto tempo fu a Roma di fronte al palazzo della FAO, adesso non più, è un esempio evidentemente di imperialismo coloniale. Poi ci fu l'irredentismo estetico della Germania nazista, come lei lo chiama. Ecco, Hitler in che cosa si distinse? Hitler desiderava soprattutto le opere che in qualche modo rappresentavano il germanesimo, il concetto di Germania. Per esempio, una cosa che lo colpì enormemente quando venne agli Uffizi durante la sua visita d'Italia, quando fu accompagnato agli Uffizi, furono i due quadri di Cranach, Adamo ed Eva, che sono certamente esempi straordinari di arte germanica, ma per lui erano, come dire, gli antenati del popolo ariano, del popolo tedesco. Gli volle pare, così almeno raccontò Filippo d'Assia, gli volle per un certo periodo nel suo studio in Prussia orientale, nella Tana del Lupo. Poi furono ritrovati, credo, proprio da Rodolfo Siviero, che fu una specie di James Bond del recupero dell'arte trafugata, in quelle miniere di sale del Salisburghese, dove finirono praticamente tre quarti di quello che era stato rubato, in condizioni tra l'altro spaventose. Per fortuna gli americani ci arrivarono rapidamente. Lei nota, concludendo il suo libro, che l'arte rappresenta la combinazione di tre fattori: la bellezza, il potere e la sacralità. Ecco, secondo lei ancora oggi l'arte rappresenta tutti questi fattori, o c'è qualcos'altro nel fascino, nelle polemiche sui temi culturali e artistici che oggi avvengono? Sulla sacralità comincerei ad avere qualche dubbio, perché l'arte moderna ha desacralizzato l'arte, in un certo senso, forse addirittura, mi pare che sia stato detto, se non sbaglio, da Argan, un critico d'arte che fu anche sindaco di Roma, che l'arte era morta. E credo che fosse morta proprio nel senso sacrale che aveva assunto la parola. Però attenzione, ancora oggi vi sono oggetti d'arte che in qualche modo sprigionano spiritualità. Il calice di San Gennaro, dove è custodito il sangue di San Gennaro. Tutte le icone della Chiesa ortodossa russa hanno una sacralità implicita. Qualche tempo fa abbiamo visto, pochissimi giorni fa, abbiamo visto una cerimonia abbastanza interessante. In Russia sono arrivati alcuni tesori del monastero di Athos. Quei tesori possono essere visti soltanto dai pochi uomini, non donne, che vengono ammessi nel monastero di Athos, oltre che naturalmente dai monaci che ne fanno parte. Beh, furono esposti in pubblico e il pubblico arrivò a frotte per toccarli, per baciarli, perché erano spiritualità. Ora, noi abbiamo perso quel concetto di spiritualità implicito nell'opera d'arte, anzi siamo il paese che maggiormente, per così dire, aveva desacralizzato l'arte a partire dal Medioevo, ma certamente questa sacralità dell'arte non è del tutto finita. Grazie a Sergio Romano, autore dell'Arte in guerra. Buonasera. Buonasera. E dopo aver parlato dell'arte in guerra, parliamo dell'arte della guerra, che è il titolo di una collana del Mulino, nella quale sono ripubblicati due volumi su temi bellici. Andiamo in ordine di tempo. Il primo è quello di Giovanni Brizzi, che è uno storico della storia romana a Bologna, e si intitola Il guerriero, l'oplita, il legionario, gli eserciti nel mondo classico. 238 pagine, 12 euro. E le note di Ottorino Respighe, tratte dai Pini di Roma, questa è appunto la Marcia dei Legionari, ci sottolineano che questo libro rappresenta un assunto, una presentazione della storia militare greca e soprattutto romana, sintetizzata nella figura del legionario romano, figura nella quale, secondo l'autore, si sintetizza l'ideale militare antico e il senso di disciplina della Roma repubblicana e imperiale. Qui troviamo un riassunto della storia militare greca e soprattutto romana, sintetizzata nella figura del legionario romano, figura nella quale, secondo l'autore, si sintetizza l'ideale militare antico e anche il senso di disciplina della Roma repubblicana e imperiale. La svolta nell'ordinamento militare romano avvenne quando il servizio militare, per così dire, diventa una professione. Questa fu una riforma voluta da Mario. Non era più obbligatorio fare il soldato, ma era una libera scelta per conseguire naturalmente migliori condizioni di vita. E questo diede luogo delle conseguenze decisive, perché, come spiega l'autore, il fatto che la carriera militare assicurasse un futuro legava molto i soldati al loro duce e naturalmente agli obiettivi di conquista che Roma aveva. Scrive infatti l'autore: il timore di perdere i mezzi di sussistenza indusse i soldati non solo ad assecondare qualunque causa pur di rimanere in servizio, ma a legarsi a quei capi dai quali dipendeva il loro benessere, con un vincolo strettissimo. Le conseguenze di questa svolta saranno poi in qualche modo risolte, affrontate, governate da Augusto, quando diventa imperatore, un imperatore che dominava su un esercito di 28 legioni e 150.000 uomini. Apro su questo una parentesi per ricordare un libro su alcuni protagonisti di quella storia militare. Dei leader indiscussi ne troviamo tre nel libro L'arte del comando di Barry Strauss, è un professore di storia e cultura classica alla Cornell University. È pubblicato dalla Terza, 342 pagine, 18 euro, ed è tradotto da Giuliana Scudder. I tre sono Alessandro, Annibale e Cesare, accomunati da una caratteristica: aver dedicato interamente la propria vita al combattimento, ma finalizzato a conquistare un impero. E quali erano le caratteristiche che accomunavano questi tre eroi, per così dire? L'autore ne enumera 10: l'ambizione, la capacità di valutazione, l'attitudine al comando, l'audacia, l'adattabilità, l'attenzione alle infrastrutture che però non possono supplire alla mancanza di spirito di corpo, la strategia, il terrore, la capacità di distinguere e infine la divina provvidenza, perché, come si suol dire, scrive l'autore, l'uomo propone e Dio dispone. E i tre avevano una debolezza comune che li perse tutti, e cioè la vanità, alla quale cedettero, infiammati dalla vittoria e ubriachi di successo, come scrive l'autore, un rischio che le moderne istituzioni democratiche riescono a tenere lontano. Torniamo al Mulino e alla collana di cui vi dicevo. L'altro titolo è quello su un tema che ci accompagnerà lungo tutto quest'anno, che è il centenario della Prima Guerra Mondiale, e così si intitola infatti il libro di Stuart Robson, che adesso vi ricordo, La Prima Guerra Mondiale, pubblicato dal Mulino, 174 pagine, 12 euro, tradotto da Nicola Rainaud. Questo è un libro diviso in anni, dal 14 al 18, con una sintesi degli avvenimenti, soprattutto dal punto di vista militare. Ma perché, si chiede alla fine l'autore, ricordare quella guerra? Ce lo chiederemo magari tante volte quest'anno, quando se ne parlerà a lungo, con tutte le vittime che quella guerra provocò. Pensiamo che furono 1.300.000 i caduti soltanto in Francia. Cosa ci fu di grande nella Grande Guerra, si domanda Robson. Il fatto, ce lo spiega poi alla fine del libro, che sia cambiato il nostro modo di comprendere la natura per la storia. Ci siamo presi la briga di indagare, scrive Robson, su ciò che gli individui pensavano stesse accadendo, e abbiamo riflettuto sulla discrepanza paradossale tra ciò che era nelle intenzioni e quanto è effettivamente accaduto. Come ha ben compreso Scott Fitzgerald, un bel mondo sicuro saltò in aria dopo il 1914. E a questo punto la linea alle informazioni sul traffico. Un libro tira l'altro. Ben ritrovati con Salvatore Carruba. Passiamo subito adesso alle letture per bambini e non solo. Il confettino. Vi presento adesso un libro di fiabe adatto a tutti, si intitola Il Pozzo delle Meraviglie, sono 300 fiabe, novelle e racconti popolari siciliani che aveva raccolto Giuseppe Pitre, il maggiore studioso di tradizioni popolari del Novecento e uno dei più importanti al mondo, palermitano, vissuto tra il 1841 e il 1916. Il libro è pubblicato da Donzelli, 804 pagine, 30 euro, e ha le belle illustrazioni di Fabian Negrin, con la curatela di Bianca Lazzaro, che le ha tradotte dal siciliano. Questa raccolta risale al 1875 e rappresenta il più ricco repertorio di favole pubblicato in Italia. Pitre, che di mestiere faceva il medico, raccoglieva queste storie andando in giro, in calesse, si fermava a parlare coi popolani, ne raccoglieva appunto i racconti e poi li trascriveva rigorosamente in dialetto, e per questo aveva addirittura attrezzato il proprio calesse in una specie di studio itinerante. Il risultato del suo lavoro sarebbe stato salutato da Italo Calvino come l'optimum dell'arte di raccontare a voce. E questo è anche un record, ricorda Bianca Lazzaro, perché Pitre batte i fratelli Grimm 300 a 200 quanto a testi di fiabe raccolte. Lo studioso americano Jack Zipes, nella introduzione al libro, rivendica l'importanza a livello internazionale del lavoro di Pitre e ne sottolinea un aspetto, ossia il fatto che Pitre aveva il desiderio di dare voce ai narratori umili e negletti, che erano, per così dire, i custodi della storia siciliana. Questo spiega, conclude l'americano, il rigore con cui registrava e manteneva le storie nei rispettivi dialetti. Miniera principale dei racconti di Pitre fu soprattutto il quartiere palermitano di Borgo, e di Palermo si parla in questa storiella che adesso vi propongo, che ha come protagonista la famosa minuscola statua di Carlo V a Palermo a Piazza Bologna. Il re di bronzo nella Piazza Bologna dice: Palermo, un sacco alto così, e tiene la mano tesa come per scaldarsi, volendo dire che per vivere a Palermo ci vuole un sacco di denari, grande e alto da terra fino alla sua mano. A Palermo i soldi se ne vanno come l'acqua, e per mangiare e vestirsi ci vuole una borsa senza cordoni. Altri dicono che la statua vuole dire Palermo, soldini tanti per avere giustizia, perché la chiave dell'oro apre qualunque porta. E a Palermo un tempo i giudici vendevano la giustizia in cambio di denari. Un libro che si ricollega allo stesso gusto del racconto spesso beffardo e sorprendente che caratterizza la tradizione siciliana è quello di un altro scrittore di quell'isola, questo a noi contemporaneo, Pietrangelo Buttafuoco, di cui è appena uscito Il dolore pazzo dell'amore, è pubblicato da Bompiani, 192 pagine, 15 euro. Questo libro ci è presentato proprio come un conto, ossia una raccolta a sua volta di episodi e ricordi e personaggi sui quali si è formata la storia di Buttafuoco, e qui si parla di Sicilia, di guerra, di cultura islamica, degli eroi della Seconda Guerra Mondiale. Tutto contribuisce a formare un efficace affresco letterario che è molto di più di una semplice autobiografia, ma serve a sintetizzare i tratti di un mondo che nelle pagine dell'autore diventa quasi fatato o mitico. Sentite per esempio dal libro di Buttafuoco questa straordinaria definizione del siciliano, del quale mi compiaccio anch'io siciliano, una definizione nata nei saloni da barbiere dell'isola. E bisogna credere ai barbieri, sempre, quando raccontano. Sempre. Ora ti conto, dicono. E prendo tempo, mormorano ancora a mezza bocca. E lo faccio adagio, sussurrano sorridendo. A voce lenta, suggeriscono. E ci metto respiro, soffiano mettendo pausa. Ora ti conto il fatto e ti prendo il tempo. Dopodiché cantavano. Un uomo scaltro come un saraceno, con la figura di un principe normanno, l'amore per le arti di un antico greco, signore di vita come uno spagnolo, forte e giusto come un romano, tira la somma, è il vero siciliano. E poi c'è l'ironia di cui Buttafuoco fa sempre prova, per esempio quando parla dei palermitani e scrive: non c'è un palermitano che faccia il palermitano. Tra le sparatine di Enrico Ragusa raccolte nel libro di Salvo Licata c'è questa: ma perché tu palermitano dici di essere catanese? Risposta: così la brutta figura la fanno loro. Siciliana è anche l'autrice di cui vi presento l'ultima novità, Silvana La Spina, autrice di romanzi anche polizieschi, ha dato vita al personaggio della commissaria Gangemi. Il libro si intitola La Continentale, pubblicato da Mondadori, 210 pagine, 16 euro. Continentale in siciliano è la persona che viene dal nord, in questo caso è la madre della protagonista, che è di Padova, come del resto la madre dell'autrice. E l'autrice che parla qui in prima persona e ci parla proprio di questo rapporto difficile della madre settentrionale con la terra del marito, la Sicilia, una terra che ella non sopporta e alla quale imputa addirittura le proprie frustrazioni e i propri insuccessi anche sociali. E si parla anche del rapporto altrettanto difficile tra madre e figlia, figlia unica, che stando in Sicilia imparerà ad amare la terra d'adozione. La storia è complessa, è più di un'autobiografia, è più di una ricostruzione molto efficace della formazione di una bambina poi diventata ragazza nella Sicilia del dopoguerra, ancora dominata naturalmente da mentalità e abitudini arcaiche. Sullo sfondo questa ossessione della madre per il nord, dove la sorella, la zia dell'autrice, avrà successo sociale mandando in bestia e facendo morire d'invidia appunto la mamma di Silvana La Spina. E il rapporto è difficile, dicevo, tra madre e figlia, ma questo rapporto è naturalmente l'occasione di maturazione e di crescita che si concluderà con una postuma e profonda dichiarazione d'amore della figlia nei confronti della madre, ma anche con un'amara riflessione sulla contrapposizione tra nord e sud che tanto aveva ossessionato la mamma, e che così l'autrice riassume. Sono andata al nord, mi sono stabilita a Milano e sono persino diventata una continentale. Ma non c'è nessuno al nord che ci creda. Io per loro rimarrò sempre una terrona. Alla fine non ho casa, non ho patria e specialmente non ho madre, ma non mi lamento. E quando per caso vado a Padova, riconosco che quello è il nord di mia madre, mentre per me è una piccola città di provincia come tante. Il nord stesso non mi sembra più tanto a nord come mi ricordavo. Nemmeno Milano lo è. C'è in giro più un'aria spagnola che austriacante. Persino nelle chiese scopro una certa leziosità barocca in mezzo al vigore controriformista. E barocchi sono anche i suoi grandi scrittori, Gaddar, Basino, Testori. Come li chiamereste se non barocchi? Che il nord non esista veramente, mi dico? Che l'idea del nord sia tutto un inganno, un'illusione? Dopo il matrimonio tra la padovana e il siciliano, vi parlo di un altro matrimonio singolare, quello al centro del libro di Alice Di Stefano, Publisher, e pubblicato da Fazzi, 380 pagine, 16,50 euro. L'autrice del libro è editor nella stessa Fazzi, dove dirige con successo la collana Le Meraviglie, ma l'autrice è soprattutto la moglie del signor Fazzi, e qui nel libro ci dà una gustosa descrizione di una vita familiare dedicata all'editoria, di un protagonista dell'editoria italiana e dell'ambiente che gravita sull'editoria italiana, soprattutto dalle parti di Roma. Il libro è autobiografico, ma in terza persona, quasi a voler prendere le distanze dalle vicende raccontate, sempre con un grande senso dell'umorismo. Per esempio, di Fazzi, il marito Fazzi, l'autrice non manca di sottolineare l'ego smisurato, la pervicace abitudine a usare un linguaggio talora banale, Per esempio, scrive l'autrice, Fazio, oltre a vagheggiare di continuo italiche eccellenze a risollevare le sorti del sistema Italia, usa parole odiose e insopportabili neologismi, completamente nella parte di amministratore unico della società, organizzatrice di convegni con aggiornamenti di interesse nazionale a pagamento, perché il signor Fazio prima aveva anche questo tipo di attività. E qui troviamo nel libro la cronaca del legame sentimentale professionale, legami che si intrecciano tutti i giorni e si dipanano in tutto il mondo, nelle vacanze esotiche molto amate dall'editore e naturalmente negli appuntamenti d'affari, dalle fiere ai premi che lo vedono protagonista. Ultimi arrivi. Cominciamo con un personaggio molto popolare, 007, che troviamo nel libro di Ian Fleming, Moonraker, considerato una delle avventure più complesse di James Bond, riproposta da Adelphi, 270 pagine, 18 euro, ed è tradotto da Massimo Bocchiola. Poi un noir italiano, anzi pugliese, pubblicato con grande successo in ebook e adesso riproposto sul vecchio supporto della carta. Si intitola Immagine Corvi, l'autore Luigi Sorrenti, è pubblicato da 360, 444 pagine, 12,90 euro, in cui si parla di una invasione misteriosa e sinistra in Puglia. Poi vi segnalo un saggio su un tema di attualità, il destino e le prospettive dei quarantenni, che troviamo nel libro di un giornalista, Andrea Scanzi, che si intitola Non è tempo per noi, quarantenni, una generazione in panchina, presentato da Rizzoli, 176 pagine, 17 euro. E infine il sequel di un libro e film di successo, e cioè La vendetta veste Prada, Il ritorno del diavolo di Lauren Weisberger, che è l'autrice americana di successo di libri sul mondo della moda. Il libro è pubblicato da PM, 448 pagine, 19,50 euro. Troviamo qui un nuovo, ancor più micidiale duello tra Andy e Miranda, la mitica e detestata direttrice della più quotata rivista internazionale di moda. E con questo ringrazio Luca Cremonesi, redazione, e Gianmarco Ferronati in regia. Vi ricordo il nostro indirizzo di posta elettronica, libro@radio24.it, e il nostro sito www.radio24.it, dove potete riascoltare sempre questa e tutte le altre nostre trasmissioni. Vi auguro buona serata e vi do appuntamento domenica prossima.